Non c'è nessun rapporto, qua non hanno non drangheta e non niente. Tutte quelle menzognità che hanno detto sono solo falsità. Non esiste la drangheta. Non è vero niente, non è vero niente, sono solo falsità. Ragazzi, domenica, voi potete scrivere un bello rant tanto. Sono orgogliosa dei miei familiari, sono orgogliosa di mio padre, sono orgogliosa di chiamarmi domani come Mazzagatti. E sono orgogliosa di mio fratello, dei miei nipoti, di tutti, perché sono persone che hanno sempre lavorato. Perché no? Perché sono persone che si sono fatti sempre i fatti suoi. Hanno sempre lavorato, hanno un lavoro, e li hanno distrutti. Però spera, Madonna la grazia, oh signori, mio Dio, cielo, tu che vedi tutto. Quando calare la Madonna la nuda grazia, e tu potete domandare a tutti, a statua, schianai fino agli assù, parrocco, non faccio se mi venisse, mi rompecai fino alla Madonna, pulisce Madonna mia, la cacciare tutte, che sono tutti innocenti, con signore grida vendetta, perché sapete che dico, mi condannano come Giuda condannato signore, mi misero in croce come un signore, come Giuda mi sono signore in croce, come mi sono in croce, chi fa il resto manera, de bella e de mai, la manera mi sarebbe familiare. Ma io non ci udissi Madonna da grazia, cambiare la Madonna mi dice da grazia. Anche quest'anno la gente accorrerà numerosa a festeggiare il patrono di cui è molto orgogliosa. Picciotti considerati brave persone perché portano una statua sulle spalle con devozione. Non vedono chi sta morendo accanto a loro, disprezzano chi non canta nel coro. A scuola hanno menato un ragazzo che non voleva arrendersi o hanno torturato un cane che non ha saputo difendersi. Dettano legge nel loro squallido paese, se arriva uno straniero troverà sicuramente delle sorprese. Famiglie intoccabili, famiglie adorate, famiglie sacre, famiglie rispettate. Chi non segue la loro legge verrà fatto fuori. Anche tu non hai visto niente perché se parli muori. Vanno a fare l'inchino sotto la casa del mafioso, processioni che finiscono in modo vergognoso. Emigrano all'estero e mi fanno vergognare, rimarranno sempre chiusi, non potranno mai cambiare. Come i neomelodici amano la vita del camorrista, droga, armi, prostituzione, diventi affarista. La loro cultura è fatta di soprusi e violenza, se all'estero dicono che sono mafiosi mostrano insofferenza. Perché nella loro comunità ci sono solo brave persone, tagliano le gomme a chi non rispetta il loro padrino padrone, lanciano minacce contro la violenza, fanno una manifestazione con una fiaccolata, risolvono ogni situazione, ne ridono e marginano in continuazione, ma sono in prima fila in ogni occasione a mostrare lacrime, a mostrare pianti. Paese di merda così ce ne sono tanti. Ricordo la strage di Ferragosto e di San Valentino, e all'estero ogni italiano è paragonato ad un assassino. Per strada abbiamo paura di chi vende accendini, Nicolas Green, Giuseppe Di Matteo erano solo bambini. Presto però loro sono stati dimenticati, gli italiani non sono violenti, meglio parlare di altri reati. C'è la messa, dopo la messa puoi fare quello che vuoi, adesso no. Ma che ne sto facendo? Niente, tu non devi neanche filmare e fare il foto, va bene? Ora qua stiamo allargando tutto. E anche all'estero sono famosi i vostri paesi di merda. Parlate di eccellenza ma sono paesi di merda. Proteggete mafiosi nei vostri paesi di merda. Aiutati e rispettati pericolosi i vostri paesi di merda. Paesi di merda. Cerchiamo di stamucarmi tutto perché sennò voglio finire muovi. Pensate che stiano nessuno da qua, ci fermo su. Hanno figli che fanno parte del branco, sono piccoli delinquenti, pensano di essere forti, ammirati e potenti. Mettono su Facebook foto in cui mostrano gli addominali e su YouTube violenze su animali. Violentano la compagna con i loro compari, fanno aggressioni a barboni ed extracomunitari. Si filmano mentre corrono in auto e fanno incidenti. Scappano e non prestano soccorso per non avere precedenti. Saltano dei tetti, massacrano passanti sconosciuti. Tanto i loro compaesani rimarranno sempre muti. Un motivo per istigare suicidi lo trovano sempre. Che grasso, timido, gay o semplicemente differente, tanto anche il prete vi difenderà. In fondo sono bravi ragazzi, colpa della società, tanto la situazione rimarrà sempre la stessa. L'importante è ritrovarsi ogni domenica messa, mentre le loro figlie per giocare lanciano un cane. I genitori hanno paura delle africane e i quattro comuni di San Gineto verranno perdonati. In tanti altri commettono gli stessi reati fin da piccoli al mare, lanciano le pietre ai gabbiani, urlano fieri sempre prima gli italiani, vanno a caccia di granchi e i loro padri li portano a caccia, detti di cazzo sono loro la prima minaccia. Figli per bene perfettamente integrati in società, progettano come uccidere i genitori per avere l'eredità. Non inventeranno la storia di una rapina fatta da malfattori, gente che per forza è venuta da fuori, perché nel loro paese tutta gente è rispettabile, nessuno può essere sospettabile. Uccidono un'amica per andare a piangere in TV, uccidono la moglie perché non ne possono più per una cazzata. Una situazione stanca, militari fuori di testa la faranno sempre franca. Tradimenti in cui la moglie viene uccisa da mariti insospettabili che portano la divisa. La gente dei servizi segreti con la pistola in casa Selene spara al fidanzato della figlia dopo cena. Ma il mondo non è tutto come i vostri, prima o poi uscirete dai vostri, capirete la violenza dei vostri e non sarete più protetti dai vostri. Paesi di merda. A mia sorella un cazzo! Si vantano della loro bontà, spesso fanno anche la carità, mostrano tutta la loro disponibilità a sfruttare la manovalanza nei campi della loro comunità. Poi contro l'immoralità difendono la loro identità, con palche da fame parlano di parità, non vogliono perdere credibilità. Loro non sono razzisti, ma fanno le barricate, ma non contro l'autorità, ma contro donne incinte che cercavano serenità. Vorrebbero una classifica e un alto punteggio per stabilire che sono loro che stanno peggio. E i bambini fin da piccoli sono indottrinati con slogan accuratamente preparati. Qui non esiste più l'eroismo, scordato il passato con egoismo. Con un'accoglienza non troppo simpatica si lamentano dell'agonia mediatica, si lamentano dei politici ma con un po' di potere fanno peggio ancora. Schiavitù e corruzione in ogni ambito fiora, discariche abusive, inceneritori, rifiuti radioattivi, conta solo l'immagine, non devono passare messaggi negativi. E sindaci rassicurano con il loro sorriso da parata, danno l'appalto alla mafia per costruire qualche cagata. Case che non stanno su neanche al primo soffio di vento, il commissario non ha visto, non è stato troppo attento. Sono molto bravi a sapersi vantare e apprezzare, hanno imparato memoria, l'inno nazionale. Bisogna far parte di un clan, di un'associazione, altrimenti non c'è spazio in questa nazione. Studiano il cavillo per fare una truffa legale, pronti se c'è la possibilità di fregare. L'Italia è bella e piena di arte, dopo un disastro prevedibile si rimbocca le maniche e riparte. Prima però passano gli sciacalli a lasciare qualche altra ferita e tutti si fanno la guerra per un parcheggio per la partita. E i media venduti sanno come strumentalizzare l'informazione e far credere agli spettatori di avere una loro opinione. Prima o poi anche voi sarete rifiutati dai vostri, anche voi discriminati, minacciati dai vostri, e anche voi finalmente odierete i vostri. Paesi di merda. Perché reagisce così? Non ho manco finito di parlare, non sono venuta a condannare nessuno. Andate via! Ma perché? Ma lei è parente magari? Non lo voglio sapere se sono parente. Va bene. Ammazzo tutti i giorni la gente, ammazzo! Ma perché allora è giustificato che ammazza la gente e ammazzano pure i cani? Lei li sta difendendo, mi scusi. E quindi scusi, è giusto che hanno ammazzato un cane? Con quella modalità? Non lo so, noi conosciamo veramente come bravi ragazzi. So che si sono pentiti. Sì, quello sì, quindi... Una bravata, perché no? Una bravata, signora, cioè lei l'ha visto il video, non è una bravata. Non l'ho visto. Se vuole glielo faccio vedere io. No, non lo voglio vedere. Di 12 donne, di cui una incinta di 8. Mi dà la sapere a me? Ma mi frega un cazzo! Troppo pagamento questo giornale. Ah, mi frega un cazzo.